Siamo con Paola Pace, direttrice della quarta edizione dello Sciaranuova Festival alle pendici dell'Etna, dal 19 al 22 luglio e poi dal 26 al 29. Paola, ben trovata. Grazie, ciao, ciao a tutti. Raccontiamolo fin dall'inizio come nasce questo progetto. Certo, volentieri. Allora, siamo arrivati alla quarta edizione. Questo progetto è nato da un'intesa che abbiamo avuto. Io come attrice invitata avevo rappresentato un mio monologo in questa tenuta meravigliosa sull'Etna, appunto a Sciaranuova. Poi abbiamo dato al festival il nome La Contrada con il planeta, questa famiglia illuminata siciliana che produce ottimo vino e che pensa bene, dico io da artista, di poi anche restituire una parte della loro felice raccolta in arte e cultura. Quindi in Sicilia loro sono molto attivi nel finanziare, sostenere e anche sponsorizzare eventi culturali. Io questa cosa la trovo encomiabile, Sì. sinceramente, no? Mi dicevi che è diffuso in più luoghi, non solo Sciaranuova. Sì, quest'anno diciamo diventa più composito il festival, quindi rimangono gli eventi teatrali sempre alla tenuta Planeta a Sciaranuova, Passo Pisciaro, Castiglione Sicilia, e poi il giovedì la musica e la domenica passeggiate filosofiche alla tenuta a Barunissa, molto vicina alla tenuta Planeta, che è anche questa una tenuta molto bella da conoscere perché ha questo palmento antichissimo, forse il più antico dei luoghi di questo luogo di Etna Nord, questo palmento che sarebbe questo luogo dove anticamente facevano il vino, molto affascinante perché è tutto gigante, quindi sembra quasi di vedere queste botti giganti, il torcio gigante, sembra quasi di immaginare un Polifemo che fa il vino, e insomma c'è quest'aria un po' mitologica. Ok. Senti, quanti saranno gli spettacoli teatrali? I teatrali saranno quattro, iniziamo subito col botto con Walter Malossi, il 20, che ci porta Venere Adone per voce sola, non vedo l'ora perché Walter è un artista fantastico, è portatore di mondi teatrali, quindi anche da solo ti fa immergere immediatamente in un mondo. E poi il giorno dopo il 21 abbiamo Viola Graziosi, bravissima, diretta da, si sposeranno tra una settimana tra l'altro, da Graziano Piazza, regista attore finissimo, e con Aiace da Giannis Rizzos. E poi la settimana dopo abbiamo il 27 Fabrizio Falco, altro talentuosissimo giovane teatrante che ci porterà questa sua personale visione recitativa sulle poesie di Pirandello, Fuori di chiave. E il 28 chiudiamo con una fantastica Nunzia Antonino diretta da Carlo Bruni, loro vengono da Bisceglie, con Lenore dalla storia di Eleonora De Fonseca Sì, Pimentel. l'abbiamo ospitato anche in radio questo spettacolo. Ah, bello, bello. Sì, sì. Quindi insomma voi sapete quanto Sì. vale Sì. questa pièce. Sì. Senti, le giornate come saranno strutturate? Ma guarda, di solito tutti gli eventi iniziano alle 19:30 con un aperitivo molto molto piacevole perché davvero in questo il planeta sono ad altissimo livello, nel senso che oltre al vino si mangiano un sacco di cosette molto buone, tipiche, così, e soprattutto è un momento conviviale dove tutta la gente, questo luogo bello, pulito, a 900 metri, silenzioso, fresco, stanno insieme. Poi alle 21 parte lo spettacolo, sia esso spettacolo o concerto. E nel caso delle due domeniche, li voglio citare perché sono anche due intellettuali finissimi. La prima domenica 22 con la una psicanalista filosofa, Andrea Bella, che ha scritto Socrate in giardino, che ci guida in una passeggiata filosofica, e la seconda domenica a conclusione, il 29, con Tiziano Fratus, che ha scritto un'infinità di libri, tra cui Il bosco è un mondo, Ogni albero un poeta, Esperto di giardini storici, che ci condurrà in una passeggiata invece dendrosofica. Lui fa dendrosofia, meditazione tra e con gli alberi, e sono due intellettuali anche molto spassosi, per niente pesanti, diciamo, sì. E quindi queste passeggiate avverranno di mattina intorno alle 10:30. Benissimo. Paola, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Certo, su internet se andate sul sito Planeta Winery, anche su Facebook trovate tutte le informazioni necessarie, quindi penso che basti il link di Planeta Vini. Benissimo, ricordiamo la quarta edizione di Sciaranuova Festival alle pendici nord dell'Etna dal 19 al 22 luglio e poi dal 26 al 29. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Paola Pace. Paola, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a te, ciao a tutti, ciao. Spero di vedervi, ciao, ciao, ciao. Ciao.